Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. minuti 16:08 in questo esatto istante. Buona giornata, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori, ben ritrovati a Nessun luogo è lontano. I saluti vi arrivano anche da Mira Lucchetti, Nadia Zammitti che sono in redazione e Peter Bescapè in regia. Vi ricordo le coordinate per interagire con noi, per porre domande, commenti, critiche: 349-238-6666 per gli SMS, 800-24-0024 se volete prenotarvi fin d'ora per l'ultima parte della trasmissione, poi Facebook Nessun luogo è lontano trattino Radio 24, Twitter mi trovate all'indirizzo Giampaz oppure Nessun luogo 24. Allora, l'avete sentito anche dal GR, sono partiti i raid aerei statunitensi e da lì voglio partire, partiamo appunto dall'Iraq. Today I authorize two operations in Iraq. Targeted airstrikes to protect our American personnel and a humanitarian effort to help save thousands of Iraqi civilians who are trapped on a mountain without food and water and facing almost certain death. Così il presidente Obama poche ore fa dava l'avvio di queste operazioni in parte militari, in parte umanitarie. Da un lato l'obiettivo è proteggere gli americani presenti nella zona, dall'altro fornire aiuti di prima necessità alle popolazioni in fuga. A scorrere alla stampa non solo italiana ma anche internazionale questa mattina i numeri sono incredibili: 100.000 cristiani in fuga mentre l'avanzata dell'ISIS appare inarrestabile. In realtà forse non era così difficile prevedere che la situazione su quel fronte in Kurdistan, tra Iraq e Kurdistan, sarebbe stato fonte di grattacapi non solo per l'amministrazione Obama, ma poi su questo punto ci torniamo perché, come sapete, come ricordate bene, Obama ha escluso presenze di anfibi, di scarponi americani ovviamente in Iraq, perché data la storia delle relazioni tra i due paesi, data l'esito dell'ultima missione, se ne guarda bene. Però per adesso ha dato il via alle iRide aerei e non sono tardate anche le reazioni. Le agenzie stanno battendo adesso appunto reazioni dello Stato Maggiore iracheno, in particolare il generale Zebari, che si dice fiducioso su una eventuale riconquista del terreno sua e dei Peshmerga curdi se gli americani continueranno a dare supporto aereo. Dicevo, non era così difficile prevedere che quel fronte si sarebbe surriscaldato. Chi l'ha pensato molto prima di me, un paio di mesi fa, è Cristiano Tinazzi, a cui do il mio buongiorno e benvenuto a Nessun luogo è lontano. Cristiano. Sì, ciao a tutti. Eccolo, buongiorno. Cristiano Tinazzi un paio di mesi fa era andato a indagare proprio quel fronte lì perché si profilava quella minaccia. Ripeto, un paio di mesi, meno di due mesi fa, eri a Erbil nella regione. In realtà i Peshmerga non appaiono così preparati a resistere all'avanzata ISIS. Tu che idea ti sei fatto delle forze in campo e di come quella regione sta reagendo a questa crisi? Io credo che i Peshmerga comunque siano l'unica forza militare addestrata che può fare da contrappeso all'avanzata dell'ISIS. È vero che si sono ritirati dal Sinjar e da Karakosh, ma questo era già successo un mese e mezzo fa, neanche quando mi trovavo lì, che Karakosh era stata attaccata dall'ISIS. Peshmerga in quel caso avevano reagito, ma era stato solo un piccolo scambio di colpi tra forse per assaggiare anche la prova e resistenza al fuoco nemico. Ma credo che adesso l'ISIS, con le ultime conquiste, abbia anche acquisito una serie di armamenti pesanti che sta utilizzando sulla linea del fronte. Evidentemente si sono ritirati, dato di fatto che si sono ritirati, però questo non vuol dire che non siano in grado comunque di reggere, e comunque l'ISIS non è ancora entrata nel Kurdistan, si trova più o meno ai confini. Sì. Oltre ai cristiani in fuga, dicevo, poi i numeri sono tutti da verificare, si parla di un 100.000 appunto, e purtroppo quella regione ci ha tristemente abituato a persecuzioni su questa minoranza. A essere minacciati sono anche gli yazidi, con i quali tu hai lavorato, hai un po' indagato questa setta. È giusto, fra l'altro è corretto chiamarla così. Chi sono gli yazidi? Ma più che setta la definisce una religione, proprio una vera e propria religione. Sono una minoranza religiosa che vive da notte dei tempi nella zona del Kurdistan, hanno una forma di religione unica che definirà la religione primordiale, una di quelle con la T della tradizione maiuscola, preesistente alle tre alle religioni del libro, e hanno adattato una serie di sincretismi religiosi, che nei confronti dei sunniti, degli estremisti sunniti, sono considerati, come si suol dire, adoratori del diavolo, perché tra le varie forme di divinità che adorano, quella più importante è quella di un pavone, di un angelo sotto forma di pavone, che viene anche definito Shaitan, ovvero il diavolo, è un angelo decaduto che poi si pente e torna a fare del bene. Quindi insomma la minoranza vive intorno a Mosul, sono circa 500.000 persone, tra l'altro lì vicino c'è la valle di Lalish, che è la sede proprio della loro religione, c'è il tempio, c'è la città tempio di Lalish, dove si ritrova anche la principale autorità religiosa, che è il Baba Sheikh. Quindi sono tra i primi a essere considerati, insieme poi agli Shabak, che è un'altra minoranza, sempre di derivazione zoroastriana, sono tra i primi ad essere in pericolo di vita, perché assolutamente per loro non c'è nessuna possibilità di conversione. Allora, l'avanzata dell'ISIS pone alcune questioni, perché da un lato è vero che i giornali si soffermano e stressano quello che è l'accanimento, no, contro le minoranze religiose, però questo califfato che si sta estendendo in Medio Oriente non è che punta di per sé all'estensione territoriale, cioè non è che il controllo del territorio tout court è nei principi, no, negli obiettivi di ISIS. Forse è bene precisare che per sostentare anche armamenti, milizie e quant'altro è utile accaparrarsi le risorse del territorio, e lì c'è il petrolio. Cristiano Tinazzi. Sì, c'è il petrolio, tra l'altro è appunto tra le cittadine conquistate con l'avanzata del Sinjar, ci sono alcune installazioni petrolifere, circa 3 o 4, con la produzione di 20.000 barili giornalieri. Loro chiaramente non puntano a quelle, quelle sono un passaggio intermedio. Io credo che il prossimo passo di ISIS sarà verso Kirkuk, che chiaramente è il cuore dei depositi petroliferi, delle installazioni petroliferi nel Kurdistan, e lì è la meta finale. Tra l'altro Kirkuk, che è stata annessa di fatto al Kurdistan con la ritirata dell'esercito iracheno, vive una situazione abbastanza delicata. Ieri sono esplose delle autobombe, c'è stato un attentato dentro una moschea sciita, e a Kirkuk la popolazione è mista, per cui l'ISIS potrebbe avere già sicuramente infiltrato delle cellule, e può avere anche il supporto di organizzazioni preesistenti all'ISIS, come Ansar al-Islam, che già si muovevano nel Kurdistan, già causavano danni, già facevano attentati negli anni passati. Chiarissimo. Parliamo di Erbil invece, che è il più grosso centro lì in Kurdistan, dove c'è anche una comunità cristiana che storicamente risiede lì, e molti dei cristiani che sono in fuga vengono accolti lì. È attrezzata la città per accogliere un così grande numero, che ripeto, si dice 100.000, ma è tutto da verificare, potrebbero essere molti di più. È attrezzata la città per accogliere tutto questo numero di questo alto numero di profughi? No, la città non è attrezzata, ci sono già dei campi preesistenti intorno a Erbil, in tutta la regione, che sono campi però che sono formati per lo più da profughi che arrivano dalla Siria. Il grosso dei cristiani, quando c'è stata la prima fuga dei cristiani da Karakosh e dalle città cristiane intorno, si è riversata ad Ankawa, perché Ankawa c'è il grosso della comunità cristiana di Erbil, è un grosso sobborgo, ormai quasi un quartiere di Erbil, e lì ci sono strutture religiose, c'è il vescovado, c'è comunque accoglienza. Insomma, non è la prima volta che i cristiani scappano per rifugiarsi in Kurdistan, soprattutto nel 2003, soprattutto durante gli scontri settari da Baghdad. Quindi sì, i cristiani sono prima scappati da Baghdad verso Karakosh, da Karakosh stanno scappando a Erbil. Il problema è che Erbil è l'ultima tappa, dopodiché dove scapperanno? Chi può, chi ha i soldi probabilmente se ne andrà all'estero se la situazione peggiorerà. Certo. Chi invece non ha niente, sperando che la situazione migliori e che poi Karakosh e le altre città torneranno sotto il controllo sicuro del Peshmerga, prima o poi cercheranno di tornare a casa. Certo, e diciamo che adesso il pallino è nelle mani dell'amministrazione statunitense, o meglio delle forze armate, forze aeree statunitensi, perché probabilmente i raid in queste ore giocheranno un ruolo fondamentale. Intanto però non tardano altre reazioni, un'agenzia sta battendo una fonte irachena che avrebbe dichiarato ad aiuto alla Chiesa che soffre. Una fonte irachena al telefono da Erbil avrebbe detto: una nuova guerra significa nuova distruzione. Bombarderanno case, strade, infrastrutture e l'ISIS, dice questa fonte che preferisce rimanere anonima, non si farà trovare tanto facilmente. E qui veniamo ai dolori della guerra, no Tinazzi, perché alla fine ISIS è abile a muoversi sul terreno, ha questi pick up, magari si muove in piccole pattuglie, non sarà facile anche per i raid statunitensi andarli a pizzicare. Beh certo, fare dei bombardamenti aerei come al solito può provocare danni collaterali, sappiamo a che cosa ci possiamo riferire, è successo in tutte le guerre, per tirar giù uno stato, un governo come quello di Gheddafi ci sono voluti più di 8 mesi, insomma, di bombardamenti continui da parte della NATO. Non credo che con qualche bombardamento mirato si riesca a risolvere la situazione. Sicuramente gli americani utilizzeranno la tecnica dei bombardamenti tra virgolette intelligenti per colpire, per fermare l'avanzata dell'ISIS, quindi cercheranno di colpire i centri logistici, di colpire le punte più avanzate, le installazioni militari, o colpire magari i capi con mezzi quali droni, cercare di eliminare magari delle catene di comando per rallentarne l'avanzata. Sì. Di certo non riusciranno a sgominarla, insomma, però magari daranno tempo anche ai Peshmerga e ai loro alleati di riuscire a cercare di costruire una difesa migliore per fronteggiare questa avanzata. Sì. Fra l'altro girava sui social alcuni colleghi stranieri, chiedevano conferme della presunta morte di uno dei leader di ISIS. Cercheremo conferme a questa notizia. Grazie Cristiano Tinazzi, giornalista, freelance, collabora fra gli altri con Il Messaggero. Buona giornata e buon lavoro, Cristiano. Grazie a tutti, ciao. (349) 2386666 per i vostri commenti in questa puntata di Nessun Luogo Lontano, in cui abbiamo iniziato parlando dell'avanzata dell'ISIS, cercando di mettere un po' di puntini su quello che sta capitando. Da un lato, lo sappiamo, l'esercito iracheno non è certamente un esercito che può contrastare efficacemente questa avanzata, dall'altro forse i Peshmerga, con l'aiuto e il supporto dei raid aerei statunitensi, potranno tentare di arrestare questa avanzata. Però siccome domenica prossima si vota e sono elezioni presidenziali storiche per la Turchia, urne aperte dal mattino fino alle 5 del pomeriggio perché verrà scelto il nuovo presidente, allora vi porto al volo in diretta a Istanbul, dove c'è Alberto Tetta. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, Alberto Tetta, giornalista, corrispondente per Osservatorio Balcani e Caucaso in Turchia, scrive anche per Team News, profondo conoscitore del paese perché ci vive lì da parecchio. Alberto, una prima battuta: che aria tira Istanbul in questa pre-vigilia? Beh, c'è molta meno tensione rispetto alle scorse elezioni, la città è tranquilla, un clima vacanziero. Infatti ricordiamo che si è appena conclusa la festa di fine Ramadan, in tanti sono ancora al mare, infatti sono molti gli appelli al voto dei politici, soprattutto di opposizione, ad andare a votare. Ovunque ci sono manifesti di Erdogan, lo slogan più gettonato: l'uomo della nazione, dai ancora più forza alla Turchia, e molti meno in giro invece i poster del candidato dell'opposizione, Sanolo. Questo è anche indicativo della poca fiducia, un certo senso di rassegnazione che regna tra i politici delle due principali forze d'opposizione. Sì. che hanno presentato appunto un candidato comune che però appare abbastanza debole. Ecco Alberto, hai iniziato a tratteggiare chi sono i tre contendenti, ascoltiamo il profilo che abbiamo tracciato noi. Il 10 agosto in Turchia si vota per la prima volta l'elezione diretta del Presidente della Repubblica. L'attuale primo ministro Ercep Erdogan, giunto al terzo mandato consecutivo, avrà due sfidanti: il curdo Selahattin Demirtas, sostenuto dal principale partito di sinistra, e Ekmeldin Isanoglu, nato al Cairo 75 anni fa, intellettuale ben conosciuto in Occidente per le sue posizioni ecumeniche, ma poco noto dall'opinione pubblica turca, che ha dalla sua parte forti legami con il mondo arabo, soprattutto con Tel Aviv e Washington. Per essere eletto, ciascun candidato ha bisogno di ottenere il 51% dei voti. In alternativa, i due candidati più votati andranno al ballottaggio. La carica presidenziale dura 7 anni ed ha ampi poteri di controllo e supervisione sia sull'esecutivo che sull'organo legislativo. La nuova legge elettorale per la scelta del presidente è entrata in vigore nel gennaio 2012 ed ha definito anche la campagna elettorale all'americana. Ai candidati è permesso accettare donazioni private per lo svolgimento della loro campagna, ma per ciascun donatore è fissato un tetto di $4,500. La campagna dei tre candidati si è concentrata sul conflitto israelo-palestinese in corso, sul processo di pace iniziato con i ribelli curdi del PKK, sulle proteste a Gezi Park del dicembre 2013 e sulla Tangentopoli del Bosforo che ha indebolito la posizione del governo. Si tratta di una tornata elettorale particolarmente delicata per il paese, dopo le difficoltà politiche ed internazionali di Erdogan, uscito mediaticamente male dalla repressione andata in scena 12 mesi fa al Gezi Park di Istanbul, che lo ha costretto ad un mega rimpasto del suo esecutivo, senza dimenticare i primi scricchiolii economici con i creditori asiatici intenzionati a chiudere i rubinetti di dollari a disposizione di progetti faraonici, come il terzo aeroporto sul Bosforo. Tuttavia, per copertura mediatica, sondaggi e consenso pubblico, il candidato Erdogan potrebbe uscire vincente da queste elezioni. In tal caso, al potere già da 11 anni, Erdogan potrebbe restare alla guida della Turchia fino al 2024. E questi sono i tre candidati in lizza, ma come avete sentito e come ragionevolmente possiamo supporre Erdogan si andrà a riconfermare. Alberto Tetta in diretta da Istanbul, quando e come si vota e quando si avranno le prime proiezioni? Sì, si voterà domenica dalle ore 8 italiane alle 16 e già verso le 18:30 ci saranno le prime proiezioni. Ok, allora andiamo a sentire la voce del candidato curdo che abbiamo tratteggiato nella nostra scheda. Evet, ben bir Kürdüm. Kürt halkının içinden çıktım. Kürt halkının mücadelesi içerisine çıktım. Siyasi mücadelem de geçmişim de yakın zamana kadar bu mücadeleyle özdeşleşti. Ecco, Alberto Tetta, quante possibilità, l'abbiamo detto che Erdogan molto ragionevolmente vincerà, ma quante possibilità ha il candidato curdo Demirtas di scompigliare le carte al presidente uscente? Beh, diciamo che è molto difficile che Demirtas vada al secondo turno e i suoi consensi diciamo che potrebbe ottenere fino al 10-11% dei consensi nella migliore delle ipotesi, questo è la percentuale che gli dà i sondaggi, però sarebbe un risultato per lui molto buono e potrebbe essere la sorpresa delle elezioni, visto che sarebbe poco meno del risultato, il suo partito ha ottenuto poco più della metà del 10% delle amministrative del 30 marzo, quindi potrebbe rappresentare una svolta per lui, anche perché, come evidenziato dall'Istituto di Ricerca Conda, che ha reso pubblico ieri l'ultimo sondaggio in cui appunto dà in largo vantaggio Erdogan, però Demirtas è stato l'unico candidato segnato da uno scontro, una polarizzazione tra un fronte erdoganista pro Erdogan e uno anti Erdogan per invece una proposta alternativa. Si è candidato ad essere rappresentante delle minoranze in Turchia, impostando la sua campagna intorno all'idea di una Turchia multiculturale e radicalmente democratica, quindi sì, diciamo che è stata una campagna un po' in controtendenza rispetto agli altri due candidati. Sì. Alberto Tetta, invece ascoltiamo un estratto dello spot elettorale del presidente uscente Erdogan. Cumhur başkanını seçiyor. Türkiye'nin gücüne güç katıyor. Erdoğan. E lo spot dai toni epici, quasi lirici direi, insomma, che mostra cavalieri che portano stelle, nonne che dai bauli consegnano alle nuove generazioni le responsabilità della Turchia che avanza. Insomma, Erdogan ha puntato molto in questa campagna e fra l'altro ci dicevi che ovunque il suo manifesto elettorale è visibile a dispetto degli altri due candidati. C'è stata una potenza di fuoco anche mediatica da parte di Erdogan che non ha lasciato scampo agli altri contendenti? Sì, certamente Erdogan che è al governo da più di 12 anni ormai gode del sostegno di, parlavate prima delle donazioni, appunto di un largo spettro, molti imprenditori che lo hanno sostenuto, quindi aveva anche maggiori possibilità dal punto di vista economico. Ed ha impostato una campagna segnata da un forte personalismo. D'altronde ha detto chiaramente che nonostante la Turchia per ora rimanga una repubblica parlamentare, non ha nessuna intenzione di svolgere un ruolo di rappresentanza, se eletto di svolgere un ruolo super partes. Infatti queste elezioni sono anche un referendum sull'ordinamento istituzionale della Turchia. Erdogan vuole una riforma presidenziale e appunto svolgere un ruolo di primo piano in politica, di cui il referendum nel 2010 in cui i cittadini turchi hanno scelto di eleggere direttamente il loro capo dello Stato è stato un primo passo. È sempre una campagna molto decisa dai toni aspri, che serve anche ad Erdogan per mostrare all'opinione pubblica turca e internazionale di tenere ancora saldamente in mano le redini del paese, come ricordavate prima, è reduce da un anno nero, il 2013, segnato sia dalle proteste antigovernative iniziate dopo la repressione delle manifestazioni contro la demolizione del parco Gezi a Istanbul, sia lo scandalo corruzione senza precedenti che ha rischiato di travolgere il governo a dicembre, quindi ha bisogno di dimostrare all'opinione pubblica internazionale di avere ancora un ruolo di primo piano. Chiarissimo. Alberto, però, quanto gli scandali interni, quanto Gezi hanno intaccato, perché insomma stare ai sondaggi è quasi un referendum su Erdogan. Com'è possibile che tutte queste vicende di politica interna Erdogan sia riuscito a smussarle in qualche modo, a rifarle così tanto da consegnarsi alle urne come probabile vincitore? La risposta però me la dai subito dopo l'informazione finanziaria. Nessun luogo è lontano. Questi erano i graffi, anzi i cazzotti, al suono di rock metaforici, ovviamente, del forse il più noto gruppo rock pop che era uscito durante le proteste di Gezi Park, i Duman. Siamo con Alberto Tetta in diretta da Istanbul e in realtà questa musica mi dà il destro per ribadire la domanda. Insomma, tutte queste proteste, tutti questi problemi interni, la corruzione, Gezi, eccetera, come hanno fatto a non indebolire Erdogan nel giro di questi mesi? Sì, secondo me oltre ai successi in campo economico e la percezione appunto che della maggior parte dei cittadini turchi che rimane, che la loro condizione economica sia destinata a migliorare, dietro i consensi raccolti dalla KP e la probabile vittoria di Erdogan, secondo me, lo hanno evidenziato anche diverse ricerche di istituti di sondaggio turchi, gli analisti, c'è dietro anche l'incapacità dell'opposizione di proporre in maniera convincente politiche alternative a quelle promosse da Erdogan. L'opposizione in Turchia, che è formata dal Partito Repubblicano del Popolo, di tradizione laica, kemalista, e l'ultradestra del Partito di Azione Nazionalista, non è riuscita a capitalizzare lo scontento verso il governo che era emerso appunto durante Ghesi, ma anche dopo lo scandalo corruzione di fine dicembre. Chiarissimo, insomma, di fronte a un'opposizione che non è capace di organizzarsi, di proporre varie alternative, alla fine, insomma, ubi maior. Grazie Alberto Tetta per essere stato con noi in diretta da Istanbul, giornalista freelance corrispondente per Osservatorio Balcani e Caucaso in Turchia e anche per l'agenzia Team News. Grazie Alberto, buona giornata, buon lavoro, magari ci risentiamo lunedì per i risultati. Grazie a voi. Alberto Tetta citava fra i motivi del successo presunto, presumibile di Erdogan l'economia in crescita, anche se in verità negli ultimi mesi ha un po' zoppicato. Se leggo bene, nel primo trimestre dell'ultimo anno cresceva del 4.3%, però siccome io non sono un esperto di economia, do il mio benvenuto a Vittorio Darol, Sole 24 Ore. Vittorio, buongiorno, benvenuto a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno a voi. Allora, perché stiamo parlando di queste elezioni in Turchia? Da un lato, elezioni storiche per la prima volta per le presidenziali elette direttamente, dall'altro la Turchia è un paese strategico, fondamentale, è la porta d'Europa, è lì in bilico, è la cesura fra due mondi, e poi è un'economia importante. Aiutaci Vittorio, sinteticamente, a fotografare i pilastri dell'economia turca. Dunque, l'economia turca è la sedicesima al mondo e punta a diventare la decima nel 2025. È un'economia manifatturiera molto produttiva, molto forte, molto competitiva. È forte soprattutto in settori di medio tecnologia, quindi viene definita la Cina dietro l'angolo, quindi ha costi del lavoro molto bassi, alta produttività, e quindi è una delocalizzazione molto interessante per molte aziende europee. Tutto questo miracolo ha fatto sì che dal 2001 al 2014 il PIL pro capite è passato, sotto appunto il governo di Erdogan, dal $2,500 a circa $10,000, quindi c'è stato quasi un quadruplicato. Quindi il PIL va molto bene, cresce a ritmi cinesi a volte, ma altrettanto velocemente va molto giù, quindi è un'economia molto, diciamo, che subisce molto la congiuntura internazionale. Sì, avrei detto a ritmi africani, giusto per citare un continente che seguo un po' di più, ma va bene, sicuramente distanti dai ritmi europei, che anzi, insomma, sono fonte di preoccupazione. In effetti, tra le leve elettorali più forti della campagna elettorale di Erdogan c'era proprio far entrare la Turchia entro il 2023 nel G10, quindi fra le prime 10 potenze del mondo, e andare a incrementare appunto il PIL pro capite. Quali sono invece i problemi? Cosa scricchiola in questa economia e che cosa invece può essere fonte di preoccupazione? Soprattutto due elementi. Il deficit delle partite correnti, cioè importano molto di più di quanto poi esportano, sostanzialmente dovuto al fatto che hanno una bolletta energetica passiva, quindi importano molto, quasi tutto il petrolio, l'energia, e questo li rende molto appunto sensibili ai prezzi del petrolio e alla congiuntura internazionale. Se non ci sono interventi, investimenti dall'estero, la Turchia quindi soffre. L'altro elemento di debolezza è l'inflazione, che ha ripreso a correre, e questo, se aiuta l'export, riduce però sensibilmente poi il potere d'acquisto interno, quindi il mercato interno si riduce. Molto quindi dipende dalla stabilità politica e dalla fiducia che la comunità internazionale e la comunità finanziaria ha nei confronti del paese. Questi sono i due punti più critici. L'altro elemento di più lungo periodo è che la Turchia deve decidere se vuole entrare nell'Europa e continuare ad avere questo rapporto privilegiato, ha già una partnership doganale, sì, o seppure vuole spostarsi, come ha fatto negli ultimi anni, verso il Medio Oriente. E qua veniamo forse al nodo centrale, no, della nostra chiacchierata, della nostra discussione, perché dicevo la Turchia è un cancello, è una cerniera, chiamatela come volete, però sta lì tra il Medio Oriente e l'Europa. Quanto l'Europa è incapace, è stata incapace nell'attirare a sé la Turchia, che l'abbiamo capito dalle tue parole, è anche una grossa fonte di opportunità, oltre che magari potenziale ingresso dell'Europa nel vicino Medio Oriente? Assolutamente, la Turchia ha il suo primo mercato nei confronti dell'Unione Europea presa nel suo complesso, ma se poi la dividiamo c'è appunto la Germania come primo partner e il secondo partner europeo c'è l'Italia, poi c'è naturalmente Russia, Cina e poi c'è l'Iraq, ma l'Iraq in questo momento da secondo mercato di sbocco è precipitato perché naturalmente le convulsioni belliche hanno destabilizzato completamente l'area, quindi la Turchia oggi soffre molto delle cosiddette conseguenze delle primavere arabe, cioè aveva puntato molto nei nuovi mercati per cercare di avere un mercato alternativo all'Europa, e perché l'Europa soffriva, l'Europa continua a soffrire e il Medio Oriente invece non è appunto nella condizione di offrire stabilità ai suoi commerci. Tra i paesi europei, ed è l'ultima domanda per te Vittorio De Rol, tra i paesi europei che più sono vicini alla Turchia c'è la Germania, perché ospita la più grande comunità turca al mondo, circa 1.400.000 appunto di turchi vivono in Germania. Però se vediamo la settimana scorsa quello che è accaduto, perché hanno votato una settimana prima, poi le urne sono state ermeticamente chiuse e portate ad Ankara per lo spoglio, hanno votato solamente in 114.000 elettori, quindi l'8% degli aventi diritto. Che cosa significa questa cosa? È un disinteresse dei turchi europei e quindi riflette il generale disinteresse e allentamento dell'Europa che sta facendo partire la Turchia verso est, o che altro? Come la leggi? Sì, assolutamente, come una scarso interesse nei confronti di una elezione che, diciamolo chiaramente, non ha nessuna suspense, perché tutti sanno che chi vincerà, quindi l'unico problema è se vincerà al primo turno o al secondo, ma tutto qui, quindi non c'è molto interesse. C'è anche un elemento di fastidio da parte dei turchi in Germania, perché Erdogan era andato e aveva detto appunto, aveva invitato la comunità turca a non assimilarsi, quindi a integrarsi ma non ad assimilarsi, quindi c'è stato anche un atteggiamento polemico in questo. I turchi in Germania si sono integrati perfettamente, abbiamo visto anche che c'è un giocatore nella nazionale tedesca che ha dato ottime performance appunto nella ultima edizione del mondiale, quindi questo modo di porsi come sempre qualcosa di altro rispetto all'Europa, alla costruzione europea, non è piaciuto probabilmente ai cittadini turchi in Germania, o di origine turca, che oggi vivono in Germania. Sì. L'ultimissima domanda, ti chiedo di sfregare la sfera di cristallo e di rispondermi con uno slogan, la Turchia che verrà, come la vedi? Sempre più potenza regionale, sempre più allontanata da un possibile ingresso nell'Europa, anche a causa di forte resistenze di paesi come la Francia, l'Austria, la stessa Germania, e quindi sempre più proiettata verso un suo destino geopolitico, che vede più l'Asia, soprattutto i paesi turcofoni dell'Asia centrale e il Medio Oriente, quindi tutto quel progresso, quella anelito verso l'Europa che aveva caratterizzato gli ultimi anni, forse è un po' a rischio, o comunque si sente una stanchezza verso questo percorso, anche a causa dei nostri timori europei nei confronti di una potenza come la Turchia, che ha una popolazione talmente elevata che un suo ingresso cambierebbe gli assetti e gli equilibri geopolitici dell'attuale Unione Europea. E allora Vittorio, ci lasci con questo tratteggio crepuscolare, direi. Grazie comunque per essere stato con noi, Vittorio De Rol, Sole 24 Ore, che ci ha meglio aiutato a comprendere come funziona l'economia turca e quale sarà il ruolo del paese nei giorni, negli anni a venire. Grazie Vittorio, alla prossima. Grazie a voi. Nessun luogo è lontano. Alle 16:45, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori, di questo venerdì di agosto, Nessun luogo lontano. Io sono Giampaolo Musumeci, Mira Lucchetti, Nadia Zemiti, redazione, Peter Bescapè a dare ritmo e musica a questa puntata, ultimo quarto d'ora. Poi leggerò un po' di sms in chiusura, ma se volete dire la vostra via voce 800 24 00 24. In quest'ultima pagina del programma volevo tornare sulla questione, ricordate, di immigrazione. Vi ho raccontato, vi ho dato conto di quelle risse gigantesche scoppiate a Calais, questo piccolo porto in Francia. Ho raggiunto alcune voci proprio lì a Calais, però vi segnalo che sul New York Times, l'edizione internazionale di quest'oggi, si parla ancora di immigrazione, guarda caso non a Calais ma in un altro porto, quello greco. L'inviata Susan Daley con la fotografa Lindsay Addario sono andati a indagare quella che è la situazione di tanti immigrati, soprattutto afghani, che si ammassano nel porto, nei sobborghi del porto di Patras, per tentare di nascondersi sotto i camion e poi tentare di arrivare in Italia. Le condizioni di vita sono catastrofiche sul litorale. Oui. Ça, c'est très préoccupant. Et nous, le Secours catholique, hein, nous sommes donc engagés. E la voce invece che sentite è Véronique Devise, che è un'attivista di Secours catholique a Calais, appunto, che ho raggiunto e che spiega come le condizioni di vita dei migranti siano catastrofiche. Sono bloccati sul litorale e noi, dice, come Soccorso Cattolico siamo impegnati a offrire loro la doccia, un luogo d'accoglienza, un guardaroba dove forniamo abiti. Ma da numeri molto piccoli, negli ultimi giorni si è passato 800 persone in fila a metà agosto, e adesso sentiremo da un altro protagonista quanti sono i migranti a Calais. Calais in effetti è una città molto piccola, non è preparata ad accogliere un così alto numero di migranti, e questa vicenda ovviamente ci riporta alla mente vicende di casa nostra, prima su tutte quella di Lampedusa. Abbiamo raggiunto Philippe Mignonet, che è vice sindaco di Calais con delega alla sicurezza. A lui ho chiesto se Calais, se la sua città, sia pronta appunto a ricevere così tanti migranti. Ascoltiamo. Actuellement, nous avons entre 1300 et 1500 migrants qui sont Philippe Mignonet racconta che ci sono tra i 1300 e i 1500 migranti che sono in diversi luoghi intorno alla città, ed è prevedibile che altri migranti arriveranno nelle prossime settimane e si aggiungeranno a una situazione già difficile. Molto difficile intanto per loro, perché sono alle porte della Gran Bretagna e non vogliono fare altro che raggiungerla. E noi, difficile per noi come cittadini di Calais, perché non possiamo accogliere una tale affluenza e non abbiamo modo di offrire più di quello che già facciamo. Sottolinea, non è certo una questione di razzismo, va da sé che meno migranti ci sono, meno pericoli di risse e di scontri ci saranno. E poi abbiamo sentito Philippe Vanesson, che è un attivista e blogger di Calais, al quale abbiamo chiesto quale sia il rapporto tra gli abitanti di Calais, le Calaisiennes, e i migranti. Ascoltiamo. There are a lot of contrasts. There are some, the extreme right make good results at the elections, but in the same time there is a quite big and old solidarity. Dice, ci sono molte tensioni, spesso anche attacchi, ma allo stesso tempo c'è grande solidarietà da parte degli abitanti di Calais. Alcuni abitanti sanno poco o nulla della situazione, altri hanno un atteggiamento ambivalente riguardo alla questione e altri ancora invece sono solidali con i migranti. Da parte della popolazione, conclude Vanesson, c'è quindi sia ostilità che solidarietà. Ci sono grandi difficoltà materiali per i migranti, tra cui ad esempio le violenze della polizia, ad esempio gli sfratti dai campi, le distruzioni delle tende, gli arresti, violenze. Spesso alcuni dei migranti vengono arrestati più volte nello stesso giorno. Insomma, dice Philippe Vanesson, c'è molta, molta pressione. E ancora Philippe Vanesson, lo ricordo, blogger e attivista, ho chiesto quali sono le zone interessate, in quali cittadine, in quali luoghi si ammassano i migranti per tentare il passaggio verso la Gran Bretagna. Calais is the main point because it's the main junction with between the continent. Calais è il punto più caldo perché è il passaggio principale tra il continente, tra la Francia e il Regno Unito, quindi il 90% dei camion diretti in Inghilterra passa da Calais. Poi è vero che ci sono anche i porti di Dunkerque, ad esempio, sempre in Francia, di Bruges in Belgio e altri porti in Olanda, ma sono coinvolti in misura molto molto minore. Quindi su Calais si concentra gran parte del traffico e quindi anche gran parte delle persone che vogliono attraversare la Manica. E poi conclude descrivendo il fatto che vi sono campi sia vicino al porto ma anche scusate, lungo l'autostrada. Ancora con Philippe Mignonet, vice sindaco di Calais, con delega alla sicurezza, gli ho chiesto, data una così massiccia e crescente presenza di migranti, qualcuno di loro ha per caso chiesto asilo politico o tutti cercano di andare in Inghilterra direttamente? E dice, è qualcosa di veramente difficile da sapere perché è una questione di pertinenza della prefettura di Parigi. Se lo fanno, se chiedono asilo politico, è unicamente per avere un documento in caso di controllo della polizia. Conferma il vice sindaco che il loro obiettivo è comunque di raggiungere l'Inghilterra. Quindi i servizi di immigrazione francese possono proporre un ritorno volontario al paese d'origine, che molti migranti ovviamente rifiutano, e conclude dicendo che i migranti incontrati, la maggior parte di loro, quando chiede asilo politico lo fa per avere un documento che gli eviti l'arresto. E poi un po' di proposte. Véronique De Vise di Secours Catholique, sentite cosa dice, perché lei dice: a livello locale non vedo soluzioni, ci vorrebbe una risposta politica a livello europeo. E la proposta è interessante perché lei dice una domanda di asilo a livello europeo con una carta europea, non quindi una carta inglese o francese o italiana, ma lei dice una volta che i migranti arrivano in Europa fanno richiesta d'asilo, questa viene concessa se è il caso e poi i migranti scelgono il paese dove risiedere. E infine la proposta di Philippe Mignonet, vice sindaco di Calais, che tira in ballo l'Italia. Ascoltate che cosa dice. Là, ce sont les services de police qui mènent les enquêtes, mais a lui ho chiesto in particolare quali organizzazioni criminali, quali organizzazioni di trafficanti stiano lavorando e stiano chiedendo migliaia di euro ai migranti per passare illegalmente in Gran Bretagna. Lui dice, certo, qua ci sono i pesci piccoli, le grosse organizzazioni hanno le teste nei paesi di origine, o magari in Inghilterra. Però nella chiacchierata che ho fatto con lui proprio questa mattina, lui lancia un appello che è quello che ha lanciato la stampa britannica. Siamo tre paesi, dice, Italia, Gran Bretagna e Francia, particolarmente toccati dal problema dell'immigrazione. I migranti, dice, arrivano innanzitutto in Italia, con anche gravi danni di immagine, di problemi di accoglienza, eccetera, eccetera. Poi vengono a Calais e, come diceva i colleghi della stampa britannica, poi arrivano in Inghilterra. Allora lui ha invitato il primo ministro inglese David Cameron a recarsi a Calais per vedere con i suoi occhi la situazione. Lui chiede al governo inglese, al governo italiano, di fare un meeting proprio a Calais, un luogo simbolico e cruciale per poter discutere una politica comune sulla gestione dell'immigrazione. Dice, fino adesso Cameron non mi ha risposto, questo è l'appello che ha lanciato al governo italiano. E questa era un po' la pagina francese dedicata all'immigrazione. Adesso mi piglio qualche minuto per rispondere un po' di SMS. Allora, su tema Iraq e intervento degli Stati Uniti, ce n'è uno particolarmente interessante. Dice, è una mia impressione, quando gli Stati Uniti e l'Occidente intervengono in qualche luogo, poi nel momento di fine missione creano i presupposti per una peggiore situazione nei territori interessati, vedi Libia, Iraq, Afghanistan, Africa orientale, non può essere un caso. Questo è Carlo, in effetti a scorrere la storia, non che le missioni americane siano costellate di successi. poi c'era un altro sms che dice: questa volta sarà dura per l'America perché è costretta solo a bombardare e non fare rastrellamenti come al tempo di Saddam. Gli estremisti islamici sono localizzati, liberi di organizzarsi dalla Libia all'Afghanistan, perché i poteri laici dei vari paesi sono stati tutti soppiantati da quelli religiosi. Questo sms introduce un tema di riflessione interessante, perché molti dei regimi che sono caduti con la primavera araba erano regimi in molti dei casi dittatoriali sicuramente, ma che tarpavano le ali a tante bolle estremiste. Basti ricordare tutta la zona di Derna, ad esempio in Libia, che Gheddafi bastonava sul serio. Basti pensare ai fratelli musulmani, che sotto Mubarak insomma erano fuori legge e praticamente non potevano aprire bocca. Poi devo darvi conto di una mail che mi è arrivata, una sollecitazione sulla puntata. Vi ricordate quando vi ho raccontato della campagna anti-gay che era stata fatta da una chiesa in Uganda? Abbiamo parlato anche del fatto che la Corte Suprema ugandese aveva rigettato per vizi procedurali quell'anti-gay act. Abbiamo sentito un attivista, vi avevo dato conto di questo pastore Martin Sempa, che è un pastore della chiesa evangelica Makerere Community Church in Kampala. Siccome un ascoltatore ha avuto l'impressione, di questo ovviamente me ne scuso, che io parlassi in generale della chiesa ugandese, assolutamente no. Quando dicevamo chiesa, quando chiedevo all'attivista del ruolo della chiesa, mi riferivo esattamente alla chiesa, alla Makerere Community Church, che è guidata da Martin Sempa, che ai gay non gliele mandava a dire, anzi organizzava campagne assolutamente omofobe. Intanto le agenzie stanno battendo e torniamo in Iraq. Ok, Rai di Obama: Francia pronta a schierarsi con gli Stati Uniti, mentre attenzione, la Gran Bretagna aveva pochi minuti fa detto assolutamente no. Leggo in diretta mentre sono con voi: la Francia è pronta a prendere parte alla lotta in difesa dei civili perseguitati dagli jihadisti dello Stato Islamico, l'ISIS, in Iraq, quanto riferisce oggi l'Eliseo, aggiungendo che il presidente francese François Hollande accoglie con favore la decisione importante di Barack Obama di autorizzare i raid aerei degli Stati Uniti contro l'ISIS. E poi una serie di messaggi impietosi nei confronti del presidente Barack Obama, secondo i quali sotto il suo mandato gli islamici imperversano. Poi altri messaggi dai toni irripetibili. Dura per l'America, dice un altro ascoltatore, con la mira che si ritrova nei bombardamenti, e dura per gli innocenti lì sotto, è sconfortata. Maura, 16:58, dobbiamo chiudere, gentili ascoltatori. Il meglio di Nessun Luogo Lontano vi aspetta sabato alle 18, domenica alle 7 di mattina. Grazie a Mire Locchetti, Nadia Zammitti, Peter Bescapè in regia. Intanto un saluto da Giampaolo Musumeci. Noi ci sentiamo in diretta lunedì ore 16, quando Nessun Luogo Sarà Lontano.